altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ve lo dico sin dall'inizio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ho le palle degli occhi che girano, girano vorticosamente, perché ci sono talmente tante di quelle notizie, talmente tante cose da dire, c'ho un ronzio anche in testa, quindi vi chiedo aiuto sin dal primo istante. Intanto vi ricordo il numero verde per telefonare e raccontarmi qual è la notizia della settimana secondo voi e soprattutto per esprimere liberamente le vostre opinioni, come succede sempre qui il sabato con me, con voi. 800 24 00 24, numero 800 24 00 24, numero verde, quindi gratuito. E io cercherò come sempre all'inizio di buttarvi qua e là qualche spunto, ma sono davvero talmente tante, talmente complesse. Per esempio, una di stamattina, la sentenza d'appello per il lodo Mondadori, Berlusconi condannato e la figlia Marina che dice aggressione a mio padre. È stata ridotta di un quarto la multa da pagare, quindi da 750 milioni a 560 milioni di euro come risarcimento appunto alla CIR di De Benedetti. Legata a questo, sapete che tra le tantissime notizie di questa settimana c'è anche questa cosiddetta leggina salva Fininvest, no? Che ha creato tante polemiche, non solo perché è stata introdotta nella manovra, perché non si sa chi l'abbia introdotta nella manovra, perché c'è stato tutto uno scaricabarile, lui lo sapeva, no? Lo sapeva quell'altro, chiedetelo a lui, no? È stato lui, no? Io non lo sapevo. E adesso sembra, almeno la notizia di ieri, che la si vuole ripresentare in Senato. E poi, cos'altro, insomma, veramente c'è, diciamo, l'imbarazzo della scelta, e la scelta imbarazzante, molto imbarazzante questa settimana, la P4, gli sviluppi di questa inchiesta, inchieste poi che si intrecciano tra loro, vi assicuro, anche per chi si occupa di informazione, soprattutto di chi si occupa di tante notizie diverse insieme, è un po' complesso capire proprio questo fil rouge, insomma, no? Sapete che poi è stata c'è stata un'ordinanza di custodia cautelare anche questa settimana in carcere per il deputato del PDL, ex finanziere Marco Milanese, strettissimo consulente fino a una decina di giorni fa del ministro Tremonti. Le accuse sono di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio, associazione per delinquere. Poi di Tremonti si è detto stava in una casa in affitto pagata da questo milanese a Roma, 8.500 euro al mese. Insomma, le cose si complicano. Poi Tremonti, sapete Tremonti, che ha dato del cretino a Brunetta, insomma, un video che credo abbiano visto a questo punto un po' tutti, i violenti scontri no TAV in Valsusa, e tanti ascoltatori e ascoltatrici di Facebook, devo dire, si sono soffermati su questa notizia. Vi ricordo sempre che c'è la pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni, dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, tanti commenti, e poi cercherò di leggerli anche su questo argomento che evidentemente tocca da vicino le persone, anche se in questo momento magari non vivono tutti in Piemonte. E poi lo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna, non sono solo questioni che riguardano noi, ma qui modo diverso, qua era con i suoi giornali Murdoch, che insomma con un certo cinismo, in un modo piuttosto diciamo disinvolto, e intanto chiude News of the World, che è il tabloid domenicale inglese più letto in assoluto, e il giornale di lingua inglese più letto in assoluto anche nel mondo. Poi la manovra finanziaria, gli sviluppi sulla vicenda Stroscani, insomma non mi soffermo oltre, qui non si finisce più. 800 24 0024, queste sono solo alcune. E poi, come sempre, che cos'è che ci conferma questa settimana che non ci sono più effettivamente le mezze stagioni? Ebbene, una questione climatica, e che banalità direte voi, no? Ci sono per mezza stagione perché piove quando dovrebbe piovere, fa freddo quando invece dovrebbe fare caldo, viceversa, ma e questa cosa riguarda proprio il clima. Voi pensate che gli aerei, per esempio, possano condizionare il meteo? Qualcuno dice no, qualcuno dice sì, invece sì, possono condizionarlo. È una ricerca seria, tant'è vero che è stata pubblicata dalla rivista scientifica prestigiosissima Science, la quale dice che gli aerei, e soprattutto quindi questo succede vicino agli aeroporti internazionali, creando, aprendo fori e canali nelle nubi, scatenano fiocchi di neve e scrosci. Questo, avete capito perché non ci sono più le mezze stagioni? Poi ci sono sempre, invece, perché anche questa settimana naturalmente spasimanti, ex mariti, mariti, fidanzati, ex fidanzati che uccidono mogli o spasimanti che non accettano, diciamo, magari le attenzioni, e così è successo anche questa settimana. E a questo proposito, però, legato in qualche modo a questo, ma tantissime altre cose, vi ricordo che c'è la Due Giorni a Siena delle donne, centinaia di donne che ritornano a incontrarsi. Ricordate la grande manifestazione del 13 febbraio scorso in tante città italiane? Anche questo è un grande evento che ci dice che non ci sono più le mezze stagioni, o sono ritornate alcune stagioni. Chissà. 800 24 00 24, e ora, signore e signori, eravate lì in attesa di sapere chi è il mio opinionista estemporaneo di oggi. Francesco Merlo. Francesco? Ah, sei Francesco? Sì. Ho detto con troppa solennità, forse questo rullo di tamburo si è un po' sbalestrato, no? No, Francesco, no. Un uomo solido come te. È una maniera ironica di introdurvi, quindi mi fa piacere. Francesco Merlo poi non ha neanche bisogno di essere introdotto con rulli o mica rulli, perché è una delle firme, diciamo, più prestigiose, più importanti del giornalismo italiano, editorialista di Repubblica dal 2003, lo è appunto, sei stato per anni a Parigi, sei ritornato a Roma, quindi eri un cervello in fuga che è stato di nuovo importato in Italia. È così, Francesco? È così, un cervelletto. Il cervelletto, parti davanti e parti dietro, per 20 anni al Corriere della Sera, quindi insomma diciamo che i massimi livelli li ha toccati tutti Francesco Merlo. E adesso, tra le varie notizie di questa settimana, ci aiuterà un po' a orientarci, naturalmente col suo punto di vista, e io aspetto anche il vostro punto di vista di ascoltatrici e ascoltatori all'800240024. E tanto per citare il tuo articolo più fresco, più recente, Francesco, è di ieri, no? Se non sbaglio, sulla Repubblica di ieri, intitolato, diciamo in modo piuttosto emblematico, eloquente, La conferenza dei cretini. Sì, perché c'è appunto il video di cui tu hai parlato all'inizio, che in cui Tremonti dà del cretino a Brunetta, mentre Brunetta espone i ricaschi della manovra economica sul pubblico impiego. E, per la verità, Brunetta si stava esibendo in un dare i numeri piuttosto, insomma, truccava le cose, eccetera. E Tremonti è il video. Era insofferente, tutti, no? Continuava a sbattere. Era insofferente. E c'è questo fuori onda, questo scoop di Repubblica Hit, con Tremonti che dà del cretino, questi funzionari molto, molto attenti, molto per bene, anche molto eleganti, devo dire, in quel tavolo erano i soli eleganti, che danno ragione a Tremonti con i numeri senza però dargli ragione sugli insulti, il cretino, lo scemo, mamma, come si fa, lo devo dire, eccetera. Quindi quel tavolo di governo sembrava appunto una tavolata di sfigati alla fine. Senti, ma due cose ti voglio chiedere, a parte che è interessante che tu dai la tua lettura di questo fatto parlando di maledizione socialista, poi ci spieghi in che senso, però due cose volevo chiederti. Una, secondo te se Tremonti, intanto forse non è un fuori onda, perché Tremonti sembra che un po' quasi palesemente, no? agitava le mani, tamburellava sul tavolo, cioè non so se questa cosa invece l'avesse proprio volutamente far apparire esplicita a chi guardava la platea. Gli insulti credo di no, cioè l'insofferenza era effettivamente reale, c'è un campo e un fuoricampo, no? E questo fuoricampo rilancia il campo e dà senso alla totalità del campo, quindi dà senso a tutto il tavolo. Quindi quel tamburellare senza quel cretino probabilmente non si spiega, cioè le cose vanno insieme. Questo però è un dettaglio interessante perché riguarda il nuovo giornalismo, perché questo sostituisce questo genere di video i vecchi retroscena che facevamo noi, che facevo io quando ero cronista politico, noi ci che si raccontava dietro che cosa si diceva, cosa... invece qui proprio in video così molto. Senti, l'altra cosa invece, una questione di opportunità, di forma, no? Pierluigi Battista diceva in questi giorni sul Corriere, insomma, neanche più la forma si salva, e oggi Gianantonio Stella, sempre sul Corriere, scrive: la credibilità è tutto in politica, tutto. Per questo, in un momento così duro per milioni di famiglie, di artigiani, di piccoli commercianti, di aziende, di giovani e di donne, leggere le cronache di come vivono, a parte la questione della casa di Tremonti, le macchine, le cose non solo sue, no? Dice, sia da un punto di vista di forma, nel trattarsi tra di loro questi esponenti politici, in questo caso del governo, sia nel trattarsi nella vita con i loro agi e privilegi, dice, sono poco credibili rispetto all'Italia a cui chiedono dei sacrifici. Che cosa pensi tu? Penso che abbia ragione Gianantonio Stella, perché questo fine regime, questo momento di fine d'epoca mette avanti un'antropologia che è scadente anche appunto dal punto di vista estetico, cioè una pacchianeria, persino nella corruzione, è una corruzione diversa, è una corruzione che è fondata appunto sul bracciale d'oro, gli orecchini d'oro, questo milanese che è stato su cui pende la richiesta d'arresto, l'ex collaboratore di Tremonti, girava su queste macchine ricchissime, bellissime, cioè è pacchiano, e così come Bisignani, un uomo del parastato, c'erano persone che una volta galleggiavano nei corridoi, quindi c'è il rilancio di un'antropologia che è legata anche al fatto che la politica ha perso la sua grandezza, perché se per caso fosse vero che Andreotti ha baciato Riina, lo faceva con un'idea con dell'Italia in testa. Che Italia aveva in testa quando baciava Riina, secondo te? Aveva l'idea di un'Italia che lui ereditava dalla Guerra Fredda, e nella quale, arrivato a un certo punto, bisogna scegliere tra il comunismo, che era il comunismo duro, non il comunismo che poi abbiamo conosciuto noi di Enrico Berlinguer, c'era il comunismo duro, quello dei gulag, il comunismo di Stalin, e la democrazia, sia pure facendo dei patti con il diavolo, con la mafia. Quindi lui riceve in eredità tutto questo, e naturalmente questo, quando la democrazia comincia ad acquistare un sapore più moderno, più normale, diventa corruzione, diventa connivenza con la criminalità, però è sempre dentro un'idea dell'Italia che lui ha. Così i Craxi, che riceve denaro, tangenti per pagare Solidarnosc, piuttosto che i palestinesi, con l'idea che comunque deve strappare l'egemonia culturale della sinistra al Partito Comunista. Cioè, quindi una realpolitik, vuoi dire tu, una volta era così, insomma. C'era una grandezza anche dietro la corruzione, mentre adesso la corruzione è una corruzione da venditori del Colosseo, della Fontana di Trevi, cioè da antropologia pacchiana, da uomini piccoli piccoli. Ecco, tu scrivi questo, no? Nel tuo editoriale piuttosto lungo di ieri su Repubblica, quindi lo sintetizzo in questa frase, poi se vuoi aggiungere dopo la viabilità, dici: il socialismo ormai è ridotto a socializzazione delle perdite e privatizzazione dei benefici, insomma il potere della forza, questo dici. Certo, perché il socialismo, quando era alimentato dall'idea dell'altrove, dalla grandezza, dall'ideale, non era un'altra cosa, aveva in sé comunque una spinta ideale, una generosità, una fantasia che adesso non c'è più. Quindi questi tre socialisti che si beccavano a quel tavolo, ecco qual è la maledizione socialista. Quindi Brunetta, Tremonti e Sacconi. Brunetta, Tremonti e Sacconi vengono dalla stessa storia e in qualche maniera reincarnano e riproducono la vecchia maledizione di Formica, che diceva liti da comari, cioè erano paladini di una corte e a fine epoca diventano comari di cortile. Qual è la vostra notizia della settimana? 800 24 00 24, una notizia ultima per Brunetta, mi sembra di leggere adesso, è che il ministro, che dovrebbe sposarsi domani sera con Titti Giovannoni, siccome c'è questa minaccia dei precari di andare insomma a contribuire al numero dei suoi ospiti, forse anticiperà segretamente di 24 ore, segretamente no, perché adesso è palese, non si sa dove, insomma, le nozze, poi capiremo, insomma, man mano. C'è Mario? Sì, c'è Mario da Verona. Mario? Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno a te. È il tuo ospite. Intanto permettimi di dare tutta la mia solidarietà al ministro Brunetta, perché insomma è notoriamente una persona che cerca il dialogo, insomma molto pacato, e mi stupisce, ecco, questa situazione. Trovi che cerchi il dialogo Brunetta in genere, diciamo, era sarcastica chiaramente la mia affermazione, perché io francamente mi è poco simpatico, appunto perché lo scontro è il suo pezzo preferito. Niente, volevo parlare in realtà appunto dell'argomento che state sviscerando, appunto della famosa del famoso cretino di Tremonti nei confronti di Brunetta. E secondo me, per come l'ho letto io, proprio è evidente che Tremonti comincia a essere insofferente davanti alla politica spettacolo, perché io ho ascoltato il pezzo in cui Brunetta diceva, faceva tutta la sua relazione, sì, dando dei numeroni che fanno effetto sul pubblico ma impiego, poi nella sostanza, come diceva appunto il signor Merlo, lì c'è una fregatura abbastanza evidente. Quindi io la leggerei sotto questo aspetto. Cioè, qual è la fregatura, Mario? Ma in realtà tutti quei numeri che spara lui sono tutti da verificare, in realtà. Lì siamo tutti quanti sul si prevede, dovremmo recuperare, qua là dovremmo risparmiare. Ecco, io francamente ho molti dubbi, perché basta leggere la finanziaria, insomma, ecco. Ecco, questa diciamo che è la notizia che secondo me va letta in questo senso qua. Comincia a essere molto insofferente il ministro Tremonti davanti a una situazione molto critica che sta prepotentemente venendo a galla, e qua cerchiamo di fare le conferenze spettacolo, ecco. Quindi... Grazie. Mario, senti, dimmi una cosa, siccome poi lo chiedo anche a Francesco Merlo, siccome Sallusti, direttore del giornale, ha detto, mi pare ieri sera o l'altro ieri sera, sulla 7, ha detto forse Tremonti, a proposito della leggina Salva Fininvest, così denominata, ha detto forse Tremonti ha informato male Bossi, perché Bossi ha detto io non ne sapevo niente, ma dice ha informato però molto bene il Quirinale, come se fosse una specie di talpa alla fine diventato Tremonti, secondo te? mi verrebbe da dire è meglio astenersi su questo argomento perché penso si commenti da solo. Io penso che Tremonti in questo momento, se proprio devo dare un mio giudizio, penso che abbia capito il vero dramma in cui ci sta portando questa politica e non lo escluderei, non lo escluderei. E permettimi un'ultimissima Ti permetto, sì? Sono contento della sentenza di stamattina. Quella sulla sentenza d'appello sull'Oddo Mondadori. Grazie Mario, ho voluto lasciare lì l'ultima eredità, diciamo, del suo pensiero. Tu, Francesco Merlo, a proposito della figura di Tremonti in questo, in questa congiuntura politica così delicata, cosa ne pensi tra il cretino? Ma dal punto di vista letterario è meraviglioso, se sembra un romanzo di Le Carré, perché Tremonti è da un lato vittima di un complotto, così dice lui, che coinvolge la Guardia di Finanza, il Presidente del Consiglio, il suo Presidente. Lui l'ha chiamato metodo boffo anche un sì, po'. Sì, lui dice, e quindi, e poi una parte della stampa che al Presidente del Consiglio si rifà. Quindi vittima di un complotto, lui si denuncia vittima di un complotto, quindi lo vogliono azzoppare. E però lui contemporaneamente dice, sanno che senza di me l'Italia va a rotoli perché io sono l'unico che garantisco l'Europa, perché in questi anni lui è l'unico che nel governo ha saputo garantire le cifre che l'Europa imponeva all'Italia, non ultima quella di questa finanziaria che prevede il pareggio di bilancio nel 2014. Quindi è la prima volta che un ministro viene azzoppato non perché se ne vada ma perché rimanga. E quindi tenuto dentro azzoppato, il ministro non può più immaginare delle soluzioni fuori da questo governo, cioè diventare presidente del Consiglio, di un governo tecnico eccetera, ma deve stare lì dentro a subire questo governo che però lui deve continuare a garantire. Quindi questa è una situazione complicata. Dopodiché sì, essere vittima di un complotto non significa essere innocenti. Ah, ecco, questo volevo chiederti. E questo è molto importante perché Milanese, che è l'uomo di cui parlavamo prima, il consulente di fiducia di Tremonti. Sì, uomo consulente per tanti anni, è l'uomo che gli ha messo a disposizione la casa, è comunque l'uomo che faceva delle corruzioni, anche qui corruzioni enormi che vanno a coinvolgere gli uomini politici, la Guardia di Finanza, il governo, cioè si parla di una rete di corruzione molto ampia dove c'è questo piccolo uomo che va in giro con le Ferrari e con i bracciali d'oro, che è l'uomo di fiducia, l'alter ego di Tremonti. Quindi Tremonti può non essersene accorto, però in politica questo è gravissimo. È vero, se ne è accorto è colpevole, se non se ne è accorto effettivamente, come dice Francesco Merlo, è molto grave. Però adesso, prima di sentire Massimo da Roma, Luigi da Torino, gli altri all'800 24 00 24, le vostre telefonate numerosissime che sta prendendo il nostro Alessandro Balia alla parte tecnica, vorrei mantenere il nostro appuntamento di sempre, perché è veramente una rarità, un'unicità, diciamo, nell'universo, questo collegamento di ogni sabato con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, col telescopio puntato sulla sfera terracquea, in specie sullo stivale italico, bisogna dirlo, si è colti da grande confusione. Struttura delta, P4. L'Italia è un paese sopraffatto, diciamolo, da problemi algebrici di complessa soluzione. Il paradosso è che i bipedi italici sono pure debolucci in matematica, piuttosto risaputo. Non cretini però, gli italiani almeno, non tutti. E poi talvolta c'è qualcuno che lo dice serenamente di qualcun altro. Dovevo essere un cretino come te e stare a bocca aperta ad ascoltarti. E certo che poi, dopo aver dato del cretino a qualcuno, per rimediare non basta nemmeno la pillola indorata del giorno dopo. In ogni caso, rassicuratevi, i problemi algebrici o meno che siano non ci sono solo in Italia. Pensate per esempio a come se la passa il Giappone. Tanto per dirne una, il ministro giapponese per la ricostruzione, tale Ryu Matsumoto, poteva mai non finire in moto il suo cognome, che giapponese mai sarebbe stato. Ebbene, Matsumoto, una settimana dopo la sua nomina a ministro, dice: il governo giapponese aiuterà per la ricostruzione solo le municipalità che portano delle idee, le altre no. Immaginate come sono stati rinfrancati i giapponesi da questa benevola e rassicurante dichiarazione del ministro. In molti a questo punto ambivano alla testa di Matsumoto, e così il ministro, a una settimana dalla sua nomina, si è dimesso. Lui sì che ha avuto una bella idea, quella che chiedeva alle municipalità, quando si dice, insomma, la creatività al potere. Comunque, strano stivale, tuttavia, bisogna dire, ritornando all'Italia, dove non c'è verso di sapere quale cristiano ha inserito una controversa leggina all'ultimo momento in un'intera manovra, ma si viene tuttavia a conoscenza in modo assolutamente trasparente di quante volte il Presidente del Consiglio lo fa in una settimana. Lo dichiara in un'intervista proprio in questi giorni su un settimanale il suo ex medico personale, Scapagnini. È un uomo fisicamente e intellettualmente superiore, assicura. Può avere 6 rapporti alla settimana senza esagerare. E il 7° giorno, aggiunge solenne, si deve riposare. Insomma, c'è effettivamente qualcosa di divino, insomma, tutto questo, no? Ma si sa, gli italiani, gente attiva da questo punto di vista, così almeno dice la leggenda. Sarà mica colpa di certe canzoni che ti ronzano nell'orecchio sin dalla prima adolescenza, no? Avete presente? E poi dopo? Dopo che uno per una vita cantando ha conturbato e subillato intere generazioni, cosa fa? Annuncia che andrà in convento, davvero. Lo ha detto in questi giorni proprio Claudio Baglioni. A fine carriera mi ritiro in convento. Ma come? Tiri tu trallallero, ma come? C'è da chiedersi proprio tu, Claudio, che hai tanto parlato di baci a labbra salate, di mani smaniose, di cose proibite, di far l'amore giù al faro, che effettivamente è un po' scomodo, insomma, molto suggestivo. Tu che mitizzavi quella maglietta fina che se la sognavano pure qui, su Marte. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. Eccoci qui con i piedi per terra, riprendiamo all'800 24 0024 Massimo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Volevo Massimo. Volevo solo solidarizzare con Francesco Merlo, perché perlomeno un giornalista che fa un passo indietro, perché qui non ce ne può più. In che senso? Quale passo indietro ha fatto? No, dico solo una cosa, ci voleva 3 anni per vedere che erano politici così di bassa lega, proprio di uno squallore totale. Io dico solo che ci hanno rubato 3 anni, tutto qui. Speriamo che qualcuno che... anche altri giornalisti che hanno la possibilità di scrivere giudiche un po' più intelligenti, perché non se ne può più. Io vorrei morire venendo un paese, non dico normale, ma perlomeno grazie a Francesco Merlo, tutto qua. Beh, comunque lunga vita a Massimo da Roma. Morire, insomma, cambieranno, poi si vedrà, insomma, a seconda dei punti di vista, chi piace, chi non piace. Luigi da Torino. Sì, buongiorno. Buongiorno Luigi. Io sono rimasto allibito questa settimana quando ho visto quella scenetta della presentazione dei conti pubblici. La scenetta sono del rimasto... cretino, dici? Sì, esatto. Mm. Ma lei si immagina una società quotata in borsa, come può essere considerato lo Stato italiano, tipo, mi dica una lei, la Fiat. L'hai detta tu, sì. Che Marchionne incomincia a dire che quello che sta dicendo grande Stevens è una cretinata. Ecco, io penso che una scena del genere se lo possono solo permettere, perché sono cose non loro, sono robe pubbliche che non gliene frega niente, e quindi dicono: ma intanto qua se va bene va bene, se va bene, se va male va bene lo stesso. E sono persone che devono veramente andare a casa, questi tutti quanti, perché non servono al paese, servono solo i loro interessi, e mi sembra che la dimostrazione sia lampante. Inoltre, tutto questo secondo me è dovuto a un unico fatto, all'esempio che hanno dall'alto. Il primo ministro si comporta come tutti sappiamo, anche se lui nega o poi dice un po' che è vero, poi un po' è falso. È uno che non riesce a governare neanche 10 o 15 ministri che ha da controllare, e gli altri si possono permettere di fare tutto quello che vogliono. Mi sembra che nella vita succeda, quando succedono queste cose, sono solo dovute a questi motivi. Luigi, ti ringrazio e ricordo sempre il numero verde 800 24 0024 per continuare a commentare le notizie della settimana. Che pensi di questo intervento, Francesco Merlo? Ma penso che ha ragione, cioè, lo esprime con umore, ma, e anche con un po' di rabbia, ma credo che abbia ragione nella sostanza. Cioè, ed è un governo che purtroppo non ha mantenuto nessuna delle promesse che ha fatto, quindi gli uomini che l'hanno votato, non so se Luigi era tra questi, hanno ragione di essere arrabbiati, e gli altri ovviamente lo sapevano. Invece Massimo di Roma gli mando un abbraccio. Senti, ma Travaglio, in questi giorni, che ha attaccato anche D'Alema per altre questioni che sono saltate fuori, gli appalti, l'ENAC, eccetera eccetera, diceva però non c'è governo al mondo che abbia un'opposizione così debole. Che dici tu? È vero. È vero, e questo governo si spiega anche con la debolezza di questa opposizione, che non è solo una debolezza, è anche peggio, cioè un'opposizione che è confusa tra le altre cose, è no? Confusa e spesso è massimalista, è estremista, non è moderna, non è affidabile. Le ragioni, una delle tante ragioni per le quali Berlusconi ha vinto tanto, è anche questa, cioè non è la sola, però è anche questa, cioè che la sinistra, l'opposizione di centro-sinistra, era un'opposizione che non era affidabile da un punto di vista di un paese moderno. Senti, ma tu, se dovessi, ancora devono capire con chi sposarsi, no? Continua questa cosa, questi balletti. Cioè, secondo te il PD, che è ovviamente il maggior partito di opposizione, deve stare con Italia dei Valori e SEL o con l'UDC? Qual è il matrimonio? Io non lo so, sono delle formule politiche che non so dire, cioè non appartiene un pochino anche al mio orizzonte di interessi, no? Perché io non devo fare il governo, ma semmai lo devo criticare. Sì, certo, però avrai un tuo punto di vista, no? Su non cose mi piacciono più... nessuno dei due. Ah. Cioè, personalmente non amo né Di Pietro, che mi sembra il contrario del ladro, cioè fino a quando ci sono i ladri ci sono le guardie. Il gioco di guardie e ladri è un gioco che non mi piace. E non mi piace nemmeno Casini perché appartiene a un gruppo, a un'idea politica vecchia, che è quella del centro, questa ossessione del centro, cioè dell'ombelico, che è il posto nel quale si digerisce, mentre invece le cose importanti nella vita si fanno con le estremità, con le gambe per muoversi e la testa per pensare. E ci sono anche le mani, piuttosto le mani. Impasta, seconda, buona o cattiva. 800 24 00 24, mio opinionista estemporaneo, oggi grande giornalista, firma di Repubblica, Francesco Merlo. E stavamo così disquisendo con Manuel dalla provincia di Milano. Manuel, mi stavi dicendo che il tuo argomento era una legge ad azienda, praticamente, Roberta, nel senso che praticamente, andando a guardare tra i meandri della manovra finanziaria varata dal governo, si vede che l'esecutivo ha inserito una norma che di fatto consente lo smantellamento delle centrali a olio per trasformarle in centrali a carbone. Ah, non era la leggina cosiddetta Salvafini, invece di un'altra cosa stai parlando? No, ed è una legge proprio d'azienda, perché praticamente c'era stata una sentenza del Consiglio di Stato su una valutazione di impatto ambientale per il Delta del Po, che è un'area protetta, un parco naturalistico praticamente. Parco sono scomparse naturale. Le anguille però, Tu sai dove sono andate le anguille? Questo è un altro grande, questo è un grande problema. Però di fatto diciamo che questa è una norma varata per favorire l'Enel. Il problema è che trasformare la centrale di Porto Tolle, che adesso è a olio, in una centrale a carbone, come di fatto consente questa norma, significherebbe il rilascio nell'atmosfera di 10 milioni di tonnellate di CO2, che sarebbe poi l'equivalente di dell'emissione rilasciata di 2 milioni di SUV nell'arco di 12 mesi. Ecco, una cosa gravissima, perché poi, ecco, a me sai cosa dispiace, Roberto? A me dispiace vedere un'azienda come l'Enel che compra delle pagine intere sui giornali. E io penso che i giornali non dovrebbero più accettare la pubblicità dell'Enel, la Repubblica, Corriere compresi, perché se si va a guardare tra i 10 impianti più inquinanti in Italia, quanti appartengono all'Enel e quali posizioni occupano in questa classifica, c'è da rimanere veramente senza parole, insomma. Manuel, allora ti ringrazio adesso che le parole si stanno affievolendo e passo la palla invece a Francesco Merlo per chiederti se vuoi commentare quello che diceva Manuel, se volete non prendere più la pubblicità, che mi sembra un po' però assurdo. E poi invece cosa ne pensi di questo altro giallo? Chi ha inserito questa leggina Salva Fininvest all'ultimo, visto che ognuno... Manuel insegna con quello che ci dice che le leggine vanno lette tutte bene, no? Perché leggerle bene ci permette appunto poi di smascherarne il senso quando c'è. Nel caso della leggina della Fininvest, l'oscurità con cui è stata introdotta nella finanziaria rivela la sua verità, cioè che se tu te ne vergogni non è vero che è una legge sacrosanta. La Lega si è subito dissociata fra le altre cose. Se fosse poi il fatto che se la rimpallano l'un con l'altro, eccetera, è evidente che quella legge era una legge fatta perché si sapeva che stamattina ci sarebbe stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che di fatto appunto poi ha confermato la condanna e ha ridotto il risarcimento a 560 milioni di euro, ed è una legge esecutiva. E il fatto che sia stata fatta di sabato mattina è un dettaglio importante, perché fa capire, perché in genere si depositano il mercoledì queste sentenze. Depositata sabato mattina significa che da un lato non vuole agire subito sulla borsa, perché la borsa avrebbe reagito male con il titolo della Fininvest e Mediaset, e poi si dà agio agli avvocati della Fininvest di tentare di fare una sospensiva, che ancora è possibile da un punto di vista legale, perché c'è la possibilità di chiedere una sospensiva d'urgenza, perché altrimenti da lunedì mattina la CIR può presentarsi in banca e chiedere pagamento della fideiussione. Senti invece, Francesco, sulla questione della NoTav, che ha molto coinvolto i facebookiani di Non ci sono più le mezze stagioni, ve lo ricordo che c'è questa pagina, vi ricordo anche che potete poi risentire la trasmissione su podcast, sia sul sito di radio24.it, sia direttamente da lunedì martedì su Non ci sono più le mezze stagioni, la pagina Facebook. Allora, sulla TAV, per esempio, Corrado dice... cioè nel dilemma se sia l'alta velocità in Val di Susa, che unisce Italia, Piemonte e Francia, se sia una grande opera strategica per lo sviluppo del nostro paese o un progetto deturpante e costoso. Corrado scrive: deturpante, costoso e inutile. Dora dice: è violazione insopportabile per i cittadini, tutti i cittadini italiani sono contrari. Per Stefano: è un progetto del quale se ne poteva benissimo fare a meno, non mi è piaciuta l'aggressione alle forze dell'ordine da parte di gruppi estremisti, Black Bloc eccetera, un tipo di protesta nella quale non vedo niente di costruttivo. Adriano dice: io credo che l'innovazione fa ancora paura, la gente non capisce che il progresso passa attraverso certe scelte strategiche da condannare senza attenuanti gli attacchi eccetera eccetera. Angelo scrive: come muli coi paraocchi la politica, le imprese, Radio 24, quindi mette dentro anche noi, e tutti gli interessati continuano a ripetere il mantra: lo sviluppo, il futuro, i nuovi posti di lavoro, la TAV sa da fare, opera strategica, noi restiamo fuori dall'Europa. Dice: non ci sono occhi e orecchie per i tecnici che dicono che essa non ha senso. E aggiunge: la TAV in Val di Susa vale come tre ponti sullo stretto, come soldi e come inutilità. Il pensiero di Monica è: non credo sia così fondamentale. Se penso allo sviluppo del nostro paese, mi vengono in mente i lavori della Salerno-Reggio Calabria. Passano degli anni, ma i lavori non finiscono mai. Santina si dice d'accordo con Monica. Giuli scrive: a questo punto io andrei avanti, inutile lasciare le cose a metà, visto che gli altri paesi sono già completati con i loro progetti, forse ci dovevano pensare tutti prima, ma è difficile fermare la tecnologia e il progresso. Enrica, per ultima, dice: sono convinta che se hanno deciso lo faranno anche se mezza Italia protestasse. Vedesi a Milano che stanno facendo cose veramente da fuori di testa, lasciano costruire palazzi addossati gli uni agli altri anche se gli abitanti della zona protestano, loro vanno avanti. E cosa ne pensi tu di, al di là ovviamente che tutti, penso anche chi magari non l'ha fatto subito, condannano gli attacchi agli agenti, quello che è venuto eccetera, ma come questione, perché leggevo proprio sui giornali, così, qualche dato, no, Francesco, che questo tratto che unisce Francia e Italia è di 54 chilometri, quindi non è una roba di 400 chilometri, una roba, ma non perché non dia fastidio agli abitanti, voglio dire una piccola cosa, quindi è così essenziale, e poi costerebbe almeno 2,1 miliardi il costo complessivo della struttura transfrontaliera per il periodo però 2007-2013, e 1,4 sono a carico di Italia e Francia, e poi dice 3 ore e 17 minuti il tempo previsto per collegare Torino e Parigi con l'alta velocità contro il tempo attuale di 5 ore e mezza, quindi in realtà leva solo 2 ore, non è che ne levi 4. Secondo te, quindi, ma proprio ragiono adesso da cittadina con queste cifre, dico, ma qual è il tuo pensiero? No, guarda, le cifre sono queste, però le puoi anche rovesciare, cioè, trattandosi di soltanto 54 chilometri non vedo perché non farla, non è che deturpa tanto. Poi un mondo che si mobilita per 6 anni contro i treni, contro un treno veloce, è un mondo purtroppo un po' medievale, cioè nessun altro paese lo capirebbe, cioè i francesi vogliono i treni veloci, ne vanno. Ecco, tu che hai vissuto in Francia, li vogliono, quindi loro dall'altra sono d'accordo. Li vogliono, ma fortissimamente, li vogliono, ne vanno fieri, se ne vantano, è uno dei fiori all'occhiello, il treno veloce è anche bello. Cioè, l'idea che il paesaggio sia bello solo quando ci sono gli alberi non è vero, cioè il paesaggio, la Torre Eiffel è bella, è bello sono belli, è bello il ponte di Lisbona, sono belli tutti i ponti del mondo. Cioè anche non, il ponte sullo stretto che ci sarà? Anche il ponte sullo stretto, se si potesse fare naturalmente in condizioni economiche giuste e al riparo dalla criminalità eccetera, il ponte sullo stretto sarebbe una magnifica opera, proprio un'opera che sfida la natura, un'opera che va avanti, cioè, e che non è misurabile soltanto dal punto di vista economico, perché anche il treno veloce che attraversa il tunnel che congiunge ormai l'Inghilterra e la Francia, che sta sotto la Manica, è come tutti sanno in passivo, ma è assolutamente una meraviglia. 800 24 00 24, ti stavo ascoltando per capire appunto le argomentazioni tue, Francesco. C'era da un po' che aspettava Carmine dalla provincia di Roma. Carmine? Sì, eccomi. Eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno a te. Forse esco un po' dall'argomento, però una cosa mi interessa personalmente. Nelle finanziarie, una bella legge che dice: io obbligo il cittadino a pagare, perché obbligano a pagare, ma lo Stato perché non paga nei suoi termini? Io devo riscuotere due fatture da un anno. Mi dicono sempre: lei ha ragione, io ho pagato l'IVA, io ho pagato le tasse, gli operai. Ma loro, loro devono essere obbligati a dare l'esempio a pagare. Non possono dire ci sono gli evasori quando loro non pagano. Tutto lì. Grazie Carmine, molto laconico. Marco da Como. Como. Pronto? Como, sì. Pronto, buongiorno. Marco, senti, queste frane lì, si è risolta un po' la situazione o no? Che ci sono state sul lago di Como questa settimana? È stata una settimana dura. Io sono via, ma le notizie da casa mi dicono che è stata una settimana difficile. Adesso un po' sta rientrando l'emergenza? Sì, sì, un po' sì, anche perché oggi è una bella giornata. Ah, meno male, va. Marco, siamo in estate, tu quindi sei in vacanza. Sento quelle cicale, cosa sono? Io sono a Grosseto. Grosseto, meraviglioso, in piena Maremma. Quindi sono le cicale queste che sento, dei pini marittimi. Benissimo. E tra l'altro magari si sentono anche in sottofondo perché fanno un caos che metà basta. Le sento benissimo, le riconosco. Sono per me una musica melodiosa nelle orecchie, le cicale dei pini. Senti Marco, e in questo concertino quindi cosa mi racconti? Ma la notizia della settimana magari, quella che più mi ha colpito. Riprendendo anche l'intervento di un radioascoltatore precedente, la notizia è l'astensione del PD dalla votazione sulle province, bravo, perché anche questo argomento volevo buttarlo lì effettivamente. No, sì. Spieghiamo alle altre ascoltatrici e agli altri ascoltatori che questa settimana si era votato per abolire le province su una proposta dell'Italia dei Valori, però PDL ha tutto votato contro.